Quindi ricordiamo che se non riusciste in tempo a prendere il biglietto, potete comunque osservare da esterni, ma ricordate che non potendo partecipare attivamente non sarà possibile seguire lo spettacolo, e questo è anche in parte voluto. Certo, certo, perché per poter entrare nello spettacolo è necessario essere dotati appunto degli auricolari e quindi poter seguire tutta la traccia data dallo spettacolo. Però chiaramente, trattandosi di una piazzetta, di un luogo magari di transito, capita spesso che ci siano dei passanti, degli osservatori esterni. Certo, perché queste dinamiche incuriosiscono, quindi destano la curiosità di chi passa, magari casualmente si ritrova dei gruppetti di persone intenti a fronteggiarsi in combattimenti esplosi, appunto così, improvvisamente. E oltre a Domini Public ci sono appunto altri spettacoli similari, ce li vuoi parlare? Sì, diciamo che la compagnia ha realizzato molti, molti lavori fino ad oggi, e chiaramente tutti prevedono il coinvolgimento attivo degli spettatori, e sono in alcuni casi è prevista la figura di un performer. E normalmente i luoghi adibiti per gli spettacoli non sono necessariamente quelli teatrali, perché come se Domini Public prevede la piazza come lo spazio di svolgimento per lo spettacolo, Pendiente Devoto, ad esempio, è un lavoro del 2012, prevede invece il Parlamento come il luogo scenico prestabilito per questa rappresentazione. E quindi qui si intravede anche la ricerca del gruppo catalano di immortalare lo sguardo verso quella realtà che vuole essere in un certo senso scandagliata, per cercare di ritrarne quelli che sono i meccanismi di funzionamento. Un altro esempio di un altro lavoro, di uno degli ultimi lavori della compagnia, Numax Fagor Plus del 2014, dove invece è la fabbrica ad essere l'elemento di indagine della compagnia, e quindi si ricreano le dinamiche proprie dell'assemblea operaia. E chiaramente questo per delineare sempre una certa vicinanza con il contesto sociopolitico a cui la compagnia cerca di rifarsi spesso.